Eccoci per una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Nonostante questo inizio di stagione molto impegnativo e faticoso almeno per me, comunque ho deciso di non cedere alla fatica e di portare avanti comunque la ben 49esima puntata di Coccoli al Silicio. Come tutte le volte in realtà apro facendo un po' il punto dell'attività dell'Eclab IFDU, delle prossime attività pubbliche e quelle della nostra quotidiana routine del mercoledì sera al Next Emerson. Questa settimana avrebbero dovuto esserci due eventi con partecipazione dell'Eclab IFDU. In realtà uno è stato poi spostato alla settimana successiva. Comunque venerdì è confermata la presentazione della piattaforma lapunta.org, questa agenda degli appuntamenti dell'underground fiorentino, e si terrà in quel della vetrina anarchica la vetrina dell'editoria anarchica libertaria, e precisamente sostanzialmente in apertura, cioè alle ore 18 di venerdì 20. E questo è quanto. Stiamo preparando anche qualche altra sorpresa per la vetrina. Chi passerà di lì vedrà, però l'unico appuntamento, diciamo, fissato è questo di venerdì alle ore 18. Invece, l'appuntamento che doveva essere domenica 22 con questa veloce storia della demo machine del Commodore 64, di cui vi ho già parlato le altre volte, di cui non vi annoio, non, no, e con la quale non vi annoio ulteriormente, sarà invece il venerdì dopo, il 27, se non sbaglio, in quel della polveriera, appunto sempre all'interno della kermesse di Inchiostri Ribelli, ma si è spostato sostanzialmente la settimana, quindi si slitta. L'orario è intorno alle 18:30, in quel della polveriera, incastrato tra un altro paio di presentazioni e spettacoli teatrali. Vi terrò compagnia io me medesimo in persona per circa un'oretta, raccontandovi un po' di queste facezie sulla demo machine del Commodore 64, anche quindi la storia dei vecchi computer, in particolare quella del Commodore 64. E vi consiglio una lettura se vi può interessare saperne qualcosa prima, altrimenti potete anche aspettare, come dicevo l'altra volta. Però recentemente ho letto un libro che si trova praticamente solo online dal titolo Freaks, e che è una storia appunto della demo machine del Commodore 64 e dell'Amiga. Se riuscite a recuperarlo, è una lettura interessante. Se non riuscite a recuperarlo, magari ve lo passo io in quel di appunto della polveriera il 27, visto che non è un testo semplicissimo da trovare, un po' per nerd appassionati sostanzialmente, perché non, sì, effettivamente non è un argomento proprio che uno vive anche se non lo sa, ecco, sostanzialmente sì. Un po' di musichetta e poi riprendiamo con le notizie, invece queste fresche fresche, da quello che succede nell'internet. just not the silly kind. I gotta dance all over town and do just what is on my mind. E il prossimo argomento di cui vi volevo un po' raccontare questa sera è una cosa che io, che non sono proprio sempre aggiornatissimo su tutte cose, ho scoperto solo l'altro giorno, essenzialmente perché guardando uno dei siti che di solito sfoglio a caso per capire un po' che succede nel mondo dell'internet, nel mondo a caroso, ho letto che Google Chrome ha aggiunto il supporto per il DNS over HTTPS. Ecco, io non sapevo cosa fosse questo DNS over HTTPS, appunto perché sono una persona ignorante, e quindi sono andato a guardarlo, ho detto ma chissà che cavolo è questa cosa, e ho scoperto che in realtà è una cosa che risulta abbastanza utile e che almeno Firefox supporta da un paio d'anni a mia insaputa. Sostanzialmente va a questo protocollo, che vi consiglio anche di utilizzare perché io l'ho provato e effettivamente è interessante. Va a coprire un piccolo grosso problema di privacy che si ha con i provider. Voi non ci fate particolarmente caso probabilmente, però ogni volta che andate a risolvere un sito, no, il protocollo DNS serve sostanzialmente a tradurre il nome tipo ifdo.noblogs.org in un indirizzo IP che poi è quello che noi utilizziamo per raggiungere quella determinata risorsa sul web. Ecco, questa cosa normalmente avviene attraverso un protocollo che il nostro provider può tranquillamente controllare a suo piacimento, e quindi anche se voi utilizzate l'HTTPS, no, per navigare, quindi i contenuti, i provider a meno di problemi tipo quelli del Kazakistan che vi avevo raccontato in qualche puntata fa, che appunto mi sembra fosse il Kazakistan, credo, comunque uno stato che obbligava i propri provider a obbligare i propri utenti a installare una CA di stato in modo da poter fare man in the middle sull'HTTPS. Allora in quel caso lì è un gran casino, però se no normalmente tutto quello che vede il proprio provider è sostanzialmente i siti che voi visitate. Non sa cosa ci fate sopra, però vede ogni volta che voi richiedete un determinato sito, c'è una corrispondente query a un DNS, quel traffico è normalmente diciamo controllabile dal vostro provider, quindi all'elenco di tutti i siti che visitate. Ve ne sarete forse anche resi conto se utilizzate, che ne so, Vodafone o qualche altro scatolotto a casa, che nelle configurazioni che vi dà di default sostanzialmente lui indica se stesso come server DNS. Quando voi sbagliate a scrivere un indirizzo, è una pagina del vostro provider che vi dice no, quella cosa lì non c'è. E quindi se lui è in grado di dirmi quella cosa lì non c'è, vuol dire che tendenzialmente ha visto che cosa visitavo. Ecco, se volete risolvere questo problema in maniera semplice con 4 click, potete dire al vostro browser, quindi andate a interessare soltanto la navigazione via web, però la maggior parte delle persone e quello fa, è poco di più. E appunto potete da Firefox e ora anche da Chrome, ma no, Chrome non ho approfondito su come si faccia, però l'ho visto come si fa da Firefox, è molto semplice. Basta andare su il menu, quello con diciamo tutte le varie voci, tra cui anche preferenze, selezionate la voce appunto preferenze, finite nella paginetta apposita. Tra i vari menu ce n'è uno che ho scritto generale, al fondo di quello ci sono le impostazioni di rete. Se cliccate su impostazioni, se avete il browser in inglese tipo settings, network, qualcosa, e poi scorrete la pagina, al fondo c'è scritto attiva DNS over HTTPS e poi utilizza provider e potete selezionare quello che è embeddato dentro Firefox, che è Cloudflare, o se non vi fidate di Cloudflare, perché in effetti ora smettete di risolvere i nomi attraverso i propri provider, li risolvete attraverso Cloudflare. Che uno dice vabbè, però perché lui va bene che sa che cosa visita, in effetti non va bene uguale, però comunque pare che sia stato scelto dalla Mozilla Foundation perché non mantiene sostanzialmente troppe informazioni su, cioè non si fa troppi cazzi vostri sostanzialmente. E cosa attiva questo coso che non ho ancora ben spiegato? Sostanzialmente attiva un protocollo per cui la richiesta di risoluzione del nome, anziché passare da il classico protocollo DNS, quindi sulla porta 53 UDP, passa invece sopra HTTPS e quindi risulta sostanzialmente del normale traffico HTTPS che il vostro provider non può, appunto fatto salvo tutto quello che vi ho detto prima, andare a controllare. Così la smettete di fargli vedere tutti i siti che visitate. Sono 4 click per una cosa abbastanza interessante, secondo me merita attivarla. Peraltro spesso ci sono anche dei motivi blandi di performance, nel senso che le query DNS alcune volte sono stranamente lente, questo DNS over HTTPS in parte sembra andare meglio. Poi, boh. Comunque, se siete veramente anche paranoici, potreste anche mettervi da qualche parte su una macchina vostra esterna un DNS over HTTPS server e fare tutto da soli. E questo comporta che non dobbiate neanche diciamo fidarvi di Cloudflare. E io nelle prove che sto facendo in realtà ho deciso che mi fido perché non c'ho voglia di fare tutto questo sbattimento. E c'è un poi una roba interessante che mi ero chiesto, ho detto ma visto che Tor Browser è sostanzialmente un rimaneggiamento di Firefox, utilizza Tor Browser anche questa cosa? Ebbene in realtà no, è un argomento dibattuto, ma si sconsiglia di utilizzarlo. Si consiglia invece di cliccare sull'opzione che è già in realtà presente di default con Tor Browser, che è quella subito sopra la voce attiva DNS over HTTPS delle preferenze di Firefox, e invece DNS proxy per SOC versione 5. E perché? Perché sostanzialmente da Tor si è già risolto questo problema, cioè utilizzando il tunneling del protocollo DNS su SOC 5 si utilizza Tor stesso, e quindi il vostro exit node per effettuare le richieste DNS. Quindi in qualche modo disattivare questa preferenza ha diciamo delle implicazioni. Il primo è che rende il vostro Tor browser più particolare rispetto agli altri e quindi più identificabile, nel senso che ogni cosa che noi aggiungiamo e togliamo da un browser, compresa anche, infatti ve lo dice anche Tor browser, di non massimizzare la finestra, perché tutto quello che noi modifichiamo aiuta a rendere unica la nostra l'oggetto che usiamo per navigare, quindi più identificabile. E l'altra cosa che perdete utilizzando il DNS over HTTPS in Tor, a quanto capisco ed è logico anche, è la possibilità di risolvere i nomi.onion, che invece all'interno della rete Tor potrebbe essere una roba interessante. Qualche altro pazzerello invece dice che invece lui lo vuole attivare lo stesso perché rende la navigazione in Tor più veloce. E loro lo sconsigliano, però tant'è. E quindi niente, questa era un po' una panoramica su questo DNS over HTTPS che io ho scoperto l'altro giorno e quindi volevo condividerlo con voi. L'altra cosa che mi ha un po' tenuto occupato non tutta la settimana, ma in realtà nell'ora e mezza precedente a questa trasmissione, è un po' su tutti i quotidiani, online, non online, eccetera, è uscita questa diciamo, a grandi paginate, ce ne hanno parlato praticamente tutti, di questo attacco, il Simjacker, che viene sponsorizzato come questa vulnerabilità che affligge tutte le nostre SIM, quindi miliardi di utenti tracciabili con un SMS da chiunque si attrezzi per farlo. E quindi io mi sono incuriosito, perché ne parlavano veramente tutti, e ho cercato di capire un pochetto come questa cosa tecnicamente funzionasse, perché sostanzialmente quasi tutti gli articoli, a parte sulla grossa stampa, citavano in maniera qualche volta appropriata, qualche volta più a casaccio, le quattro notizie che sono uscite. Tecnicamente facevano anche vedere dei disegnetti, però rimaneva un sacco di roba che io non ho, a una prima lettura ho detto, boh sì, però io non ci ho capito niente. Cioè, se è così, capisco, però è troppo poco, io voglio capirne di più. Non è stato rilasciato un POC, insomma un proof of concept di questa cosa, è stata solo spiegata un pochetto, nelle parti più tecniche viene sostanzialmente tagliata un po' da tutti i quotidiani che volevano probabilmente sfruttare l'hype dell'emergenza per attirare lettori, però evidentemente non erano poi troppo interessati a spiegare che cavolo è questa cosa. E in tutti quanti ripetono sostanzialmente, citando, virgolettando, il fatto che questo Simjacker interessa una parte, una feature di una serie di caratteristiche della vostra SIM. In particolare esiste un coso chiamato SIM Toolkit, STK, che è una specie di standardizzazione di quello che sta sopra la vostra SIM e in che modo viene esposto all'esterno per essere forse anche interrogato. Ci sono diverse app che rispondono a questo nome, cioè a questo SIM Toolkit, che sostanzialmente fanno, una volta che ve le installate sul vostro smartphone, fanno delle richieste sfruttando appunto questa standardizzazione, questi protocolli per parlare con la propria SIM, per darvi una serie di informazioni a cui altrimenti non avreste accesso. Però tutto questo è diciamo la parte superficiale e poco ancora interessante. In questa standardizzazione esiste un coso che, se volete vedere più nel dettaglio, dovreste guardare sul sito della SIM Alliance, che è simalliance.org. Sostanzialmente le specifiche di un oggetto chiamato SAT Browser, dove però la A è in realtà una chiocciolina, un at, quindi è tipo S chiocciolina T browser, che anche questo è citato in tutti gli articoli. Si tratta sostanzialmente di un oggetto, un browser di fatto, che risiede sulla vostra SIM, un browser minimale utilizzato in un tempo prima sostanzialmente che tutti avessero internet sul telefonino. E infatti, se leggete un po' meglio gli articoli, vedete che questa vulnerabilità sembra interessare un particolare comando o alcuni particolari comandi che attivano questo SAT browser, cioè che parlano con questo SAT browser. Io continuo a dire SAT, ma non lo so mica se poi si dice così. Ci mettiamo d'accordo noi, perché io l'ho solo letto, ma non ho sentito nessuno che pronunciava questa cosa, quindi per me la chiocciolina diventa una A e dico SAT browser, se no dovrei dire S chiocciolina T o in un altro modo, non lo so. Comunque lo chiamiamo così, tanto per capirci. E questo protocollo, che si attiva sostanzialmente con degli SMS un po' particolari, di cui ora cercherò di dettagliarvi le cose che ho capito, di fatto è un protocollo minimale che mima l'HTTP, cioè quello che si utilizza per normalmente le comunicazioni sul web. Esistono quindi comandi get, comandi post, esiste anche un comando push, utilizzato in particolare dai cellulari che utilizzavano WAP, che era sostanzialmente uno standard che ora è abbastanza in disuso. E questi comandi in realtà vengono sostanzialmente codificati attraverso degli SMS, ma non degli SMS di puro testo, degli SMS che si definiscono SMS binari, cioè binary SMS. Perché? Perché questo protocollo, di cui appunto potete leggervi le specifiche dove vi ho detto prima, cioè cercando SAT Browser Specification su Google lo trovate, il sito Simalliance.com. Ecco, questo protocollo prevede di mappare sostanzialmente byte a byte, bit a bit, in realtà i comandi in un formato appunto dove ciascuno 0 e ciascuno 1 ha un valore. Quindi nel byte, che ne so, se il messaggio è i primi 8 byte vengono interpretati e vengono poi spezzettati, che ne so, i primi 2 bit vogliono dire una cosa, altri 2 bit vogliono dire un'altra, e tu devi mettere i valori giusti per sostanzialmente comunicare. E quello che poi tu comunichi, appunto, con il quale comunichi appunto questo protocollo HTTP molto minimale, e in questo senso ho detto: ah, vabbè, è tutto molto, molto bello, ma poi in pratica uno come farà a farlo? E allora mi sono un po' sbattuto a trovare delle risorse che spieghino un pochino come funziona questa cosa nella pratica. Ho trovato, girovagando un po', un libro dell'Orilli dal titolo abbastanza interessante, che è SMS Messaging Applications. È un libro uscito nel 2009, che ha diversi capitoli, e tra questi ce n'è uno proprio dedicato ai binary SMS, e poco dopo ce n'è uno appunto dedicato dove c'è un esempio di push fatta attraverso il protocollo WAP. E uno viene un pochino guidato in questa cosa. Poi calandosi più nel ok, vabbè, però poi in pratica uno cosa deve fare? Perché in alcuni articoli era proprio scritto: sì, perché basta un modem GSM da 10 dollari e tu sostanzialmente, se sai cosa stai facendo, puoi provare a sfruttare questa vulnerabilità. E uno dice: va bene, e quindi che significa? Sostanzialmente, se voi avete utilizzato un modem prima o all'inizio dell'internet, ma prima, sapete che spesso i modem si comandavano con dei comandi, tipo il famoso che se voi vi collegavate alle BBS, eccetera, o anche all'internet all'inizio, dovevate dare sti maledetti comandi a mano, e sicuramente vi sarà rimasto un'impressione nel cervello, forse anche con odio, questo comando ATDT. I comandi si chiamano appunto comandi AT, che sostanzialmente sono dei modi per interagire attraverso un'interfaccia seriale con il vostro modem e parlargli direttamente. Ecco, sostanzialmente si tratta di ritornare indietro nel tempo, oppure no, se siete delle smanettone o degli smanettoni, nel senso che avete continuato a farlo. Io non lo so, io no personalmente, però si tratta sostanzialmente di procurarsi un modem GSM, e con questo modem GSM dovete interloquire attraverso un'interfaccia seriale. Quindi se utilizzate Linux, io so solo quello so fare, dovete prendere il vostro modem, cacciarlo dentro, che probabilmente sarà USB, cacciarlo dentro al vostro computer, e poi da lì farlo funzionare appunto in modalità seriale. A quel punto, utilizzando un linguaggio di scripting per non impazzire, quindi ad esempio il Python, potrete colloquiare attraverso un device che sarà tipo dev slash USB 0123, non lo so come salta fuori il modem GSM, o USB TTY qualcosa più probabilmente, e attraverso questo canale di comunicazione impartire questi comandi AT, impacchettare il vostro comando binario, il vostro SMS binario, e spedirlo. Questo sempre che il vostro provider ve lo faccia fare. E perché dico sempre che il vostro provider ve lo faccia fare? Perché sebbene gli autori appunto di questa ricerca abbiano asserito che questo protocollo è in realtà utilizzabile ancora in più di 30 paesi e su diversi provider, è anche vero che sono uscite delle, cioè l'unica cosa che ha fatto sostanzialmente il consorzio che gestisce il GSM e la SIM Alliance, eccetera, rispetto a questo bug è stato dare delle direttive. Dei consigli sostanzialmente ai vari provider per filtrare questo tipo di SMS, quindi non è detto che funzioni ancora se il vostro provider ha eseguito queste cose, oppure renderli, visto che erano state anche realizzate, cioè era stata pensata a livello di protocollo anche una versione più sicura, diciamo cifrata. Di questo che chiamiamo payload, no? Di questo coso che voi mandate come binary SMS che aveva anche funzioni di anti-reply, cioè che non potessero essere sostanzialmente messaggi mandati a casaccio e che riprendevano cioè che copiavano un SMS già visto, sostanzialmente, quindi io ne vedo uno, ne rimando uno uguale, sperando di ottenere lo stesso risultato. Ecco, diciamo che queste robe, secondo loro, dovrebbero risolvere in parte la questione. Questo perché? Perché appunto questi SMS in realtà, essendo che stanno sulla SIM, la SIM è uno cioè che questo SAT browser e in particolare tutte queste feature stando sulla SIM, la SIM non è un oggetto avanzato come il vostro telefono, quindi non c'ha il firewall davanti, non ve lo filtrate da soli questa cosa, non vedete neanche l'SMS, perché l'SMS binary di questo tipo può anche risultare un hidden SMS, cioè quegli SMS di servizio, quei canali che sostanzialmente i provider si tengono aperti per poter attivare cose sul vostro telefonino, no? Venivano utilizzati, che ne so, se compravi, boh, non lo so, la suoneria, queste cose qua, o per oggetti o per cose simili. Ora non si usa più tutto questo perché tutto si è spostato appunto sul web, però rimanendo appunto retrocompatibili, no? Per retrocompatibilità queste cose magari sono ancora attive. Ecco, però non potendole filtrare o essendo molto scomodo farlo a livello di singolo oggetto che voi avete già preso e la vostra SIM ce l'avete, il cellulare ce l'avete e quindi tant'è, quello che hanno pensato di fare è invitare gli operatori a filtrare questo tipo di traffico. Però ecco, io cercando appunto di approfondire la questione per non rimanere solo sui grossi titoli giornalistici, appunto vi ho cercato di in questa ora e mezza di capirci un pochino di più. Se volete appunto capirci ancora di più, secondo me questo libro SMS Messaging Application potrebbe essere un buon punto di partenza, nel senso che io sfogliandolo mi è sembrato fatto bene e che partiva appunto a spiegare le cose non da un livello di buttare quattro nomi, ma di approfondire e poi anche fare esempi pratici di come poter fare questa cosa. Posto che appunto i dettagli dell'attacco non sono chiarissimi, anche se negli alcuni articoli che ho letto pare che tra un pochino sarà rilasciato un qualche forma di paper o di appunto di POC, insomma qualcosa che spieghi più nel dettaglio questo tipo di attacco che appunto al di là degli oggetti strani da configurare, eccetera, poi alla fine non sembra connotarsi per essere particolarmente particolarmente complicato, cioè probabilmente per chi ha dovuto spulciarsi tutta sta roba e leggersela è stato di protocolli, cioè è stato uno sbattimento, però poi magari una volta che hai trovato la roba, magari sono 10 righe di codice e un po' di sbattimento per configurare l'oggetto. C'è da dire che comunque questa, diciamo, queste feature della vostra sim non sono state oggetto dell'interesse della comunità hacker solo da adesso. Cioè io ho ricostruito velocemente, però già nel DEFCON del 2016, che è questa convention che si tiene in quel dell'America di hacker patinati, ve lo trovate anche su YouTube, tra l'altro il video, c'è un tizio che fa uno speech di 40 minuti dal titolo La vita segreta della vostra SIM, tipo The Secret Life of Your SIM Card, una cosa del genere, nel quale parla appunto di tutto quello che tendenzialmente è emerso con questo questo lancio giornalistico, con questa vicenda, ecco, non nello specifico di questo attacco, ma appunto spiega il fatto che sulla vostra SIM ci sono tante cose, e poi in particolare ho trovato anche diversi articoli che appunto, a partire da una dotazione minima, cioè un modem GSM funzionante, spiegavano un pochino come poter sondare questo magico mondo degli SMS, che è appunto una tecnologia vetusta ma ancora molto utilizzata, per fortuna, nel senso che quando andrà in disuso i DNS saremo, gli SMS saremo sostanzialmente ostaggi delle app e dell'internet per messaggiarsi, e io spero appunto di no, perché non mi trovo bene con nessuno di questi oggetti di instant messaging, che sono molto più invadenti del cavolo di SMS, pure se in effetti l'SMS fa abbastanza schifo in questo senso, perché è tutta roba in chiaro che quindi rimane i database dei vostri provider per anni e anni e anni, e in questo effettivamente fa schifo. Ha di buono che è veramente lo fai e lo tech, e quindi è semplice, e quando hanno provato appunto a complicarle è venuta fuori tutte queste questioni di software abbandonato e ormai poco utilizzato, che sta lì solo essenzialmente per retrocompatibilità. Quindi questa era un po' la mia lunga e forse noiosa spiegazione di questo SimJacker, e tutto quello che ci ho capito io in un'ora e mezza, quindi se ho fatto delle grossolane esternazioni, scusatemi, però tant'è. E con questo in realtà sono quasi a fine di questa puntata, c'ho ancora un paio di cosine da dire, ma tendenzialmente da qui a 10 minuti sarà tutto finito. Ci avviamo quindi a chiudere questa puntata. Vi segnalo un'ultima cosa da leggere per cultura generale di medio interesse, ma comunque un pochino interessante. Su Repubblica la trovate anche online, diciamo in maniera completa, che non accade sempre per gli articoli di questo quotidiano. C'è un'intervista di Roberto Saviano a Edward Snowden. Due personaggi un po' così, però comunque l'intervista è molto interessante. Alla fine si fa cenno, tra le altre cose, a questa redecentralizzazione del web, che è sostanzialmente una roba che Snowden cita, e è abbastanza interessante, secondo me, diciamo, l'argomento, essenzialmente perché è portato avanti da alcuni personaggi con un certo peso all'interno del web, dove sottolineano la banalità, cioè che sostanzialmente il web centralizzato sulle grosse piattaforme è un'altra cosa. Completamente un'altra cosa rispetto a un ambiente libero. E quindi hanno pensato a dei modi per arrivare a ridecentralizzare il web. Quali precisamente a me non mi sono chiari, mi sembra ancora una riflessione più filosofica che tecnica, più che altro complessa appunto perché non si tratta di un problema esclusivamente tecnico, anzi probabilmente la parte tecnica è quella meno interessante. È molto difficile pensare che un escamotage tecnico possa andare a impattare su una struttura creata su interessi e poli monopoli economici così forti e così ormai fortemente presenti. Cioè, un cambiamento radicale della società è l'unica cosa che potrebbe riportare a un meccanismo di redecentralizzazione, ma perché probabilmente coinvolgerebbe anche tutti gli ambiti della vita. Mi sembra difficile partire guardando le cose dal web. Nonostante questo, comunque, l'intervista è abbastanza interessante, insomma, è da leggere, non è lunga. Se ci perdete 5 minuti, magari vi dà degli elementi di analisi che altrimenti non avreste. Non è che dica delle cose stratosferiche, ecco, però comunque si è fatto risentire dopo diversi anni, spiega anche il perché del suo silenzio, una scelta peraltro accettabile, cioè più che apprezzabile, scusate, non volevo dire accettabile, cioè apprezzabile, nel senso che dice se io mi metto sotto i riflettori poi si parla di me, io invece vorrei parlare delle cose che ho sollevato, dei problemi che ho sollevato. E quindi tant'è. Con questo vi saluto, ci sentiamo il prossimo lunedì, sempre su queste strambe frequenze per chi le sente, oppure con il podcast consueto che mi periterò di mettere all'istante. Ciao a tutte e a tutti.